Eccoci qua, dunque. 21 febbraio del 2024 inizia prove tecniche di trasmissione e avete sentito la conduzione in diretta che mi ha preceduto, che è anche una sorta di tributo, se vogliamo, a chi ci ha lasciato tanti anni fa, circa 20, e che era un animatore, una presenza importante qui a Radio Onda Rossa. E quel tipo di trasmissione riprenderà alla fine del mio spazio, quindi intorno alle 22.30 circa. www.ondarossa.info. E saluto Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Ernesti Panico Brusati, Panico da Palcoscenico, Margherita Montoneri, Doriana Panico a Taranto, Anna qui a Roma, Venusia Zozzetta Stramonio Federissima, Giovanni Lisi da Bari, Cordis Cinti Serpente. Un saluto a Giulia qui a Roma, Maya che ci sta ascoltando in Umbria, Marco Milanesio di Disordine, produttore, remixatore e quant'altro. Abbiamo Tiziano Zeno Farinacci di Pigrego, Valentina, Mara Lasi di Calitis, Simone Scalise di Audio Chaos, Lupsi con Lucia Cagliazza, una realtà molto interessante, sperimentale, sempre qui dall'Italia, Antonio Zoviet di Omicidio, Marco Mascia di Progetto Sonoro. E poi Jean-Claude Huberto da Val d'Aosta. E noi invece andiamo ad iniziare dalla Slovacchia, Bratislava, dove è stato registrato questo album di Kelodos di Matus Fabian. E quindi ci inoltriamo direttamente in zona Raffaele Pezzella attraverso la Reverse Alignment, una delle tante emanazioni della Next Play Sounds Group. Trattasi dunque di ultra criptico dark ambient al limite del cosiddetto isolazionismo. Si chiama The Night Glows e ci ascolteremo la quinta e la settima traccia. Tracce che peraltro si chiamano Untitled e quindi non hanno un vero e proprio titolo. e queste trame occulte appartengono a Kelados, progetto slovacco che sbuca fuori dal cilindro magico di Raffaele Pezzella, che contiene una merida impressionante di personaggi, progetti, scoperte musicali provenienti da continenti lontani. The Night Glows, questo flusso oscuro che ci porta direttamente a una compilation invece del 1993 che uscì per la Slaughter Production di Marco Corbelli, del compianto Marco Corbelli. Si chiama From Sickness to Death e contiene musicisti dei quali in parte ancora in attività, per esempio Raison d'Etre, dal quale ci ascolteremo Decalogue, Peter Anderson, lo ricordiamo, dalla Svezia, e un progetto invece italiano dal nome Di Son Satan con Purity. Come già annunciato in precedenza, dopo Rise on Death, ecco The Son Satan, molto più sotterraneo e sconosciuto, penso, rispetto a Rise on Death. E fino alla fine ci siamo sentiti anche questa traccia di This on Satan e Purity. Quest'ultimo Paolo Beltrame, uno dei, diciamo, dei nomi più sotterranei della scena ambient oscura degli anni 90, in realtà è tornato poi come ultimo lavoro nel 2018, ne ha fatti 4 più 2 compilation, e cercherò di rimediare altro materiale perché credo ne valga veramente la pena. Questo molto più criptico rispetto a Rise on Death, che in nella circostanza di Decalog aveva quasi un retrogusto Martial. Due parole ancora le vorrei spendere su Rise on Death, perché suonerà qui a Roma il 4 marzo insieme a Brighter Death Now e Desideri Marginis, tutti e tre i progetti svedesi. Con Desideri Marginis condivide anche il luogo di nascita, ossia Boxholm, curiosamente condiviso anche con Deutsche Nepal, che doveva essere della partita ma ha dato forfait, e quindi c'è Desideri Marginis al posto di Deutsche Nepal, ricordiamo, lunedì 4 marzo qui a Roma, e io sarò presente in quelle circostanze, quindi già vi dico che Disorder non andrà in onda il 4 marzo, già che viene di lunedì. Questa compilation contiene anche una traccia della amica Venusia tramite Accuppio Dissolvi, e quindi capiterà anche lei nei nostri ascolti, sempre da From Sickness to Death. Saluto Marcello Buffetti di Monum e Nicola Locci in Sardegna, ormai di casa qui negli spazi del sottoscritto. Questo che sta andando è proprio Atrax Morgue, ma noi andiamo avanti e ce ne andiamo in Slovenia dai Laibach, che hanno sonorizzato Iron Sky The Coming Race, un film diviso idealmente in due capitoli. Questo è il secondo capitolo, uscito più recentemente, e l'album è uscito nel 2023, un anno particolarmente prolifico per i Laibach. E anche questa sera molte tracce corte che sono Back to Earth, Crash Landing, Hollow Earth, 3310 Blue R7 eccetera eccetera, un codice abbastanza difficile da leggere, The City of Agartha e The Vril Banquet Hail. Laibach. l'impeto neosinfonico, neoclassico, la maestosità del suono Laibach, anche in questo Iron Sky The Coming Race, da quale abbiamo estratto 4-5 pezzi dei 43 che compongono questa lunga colonna sonora, che comunque ci terrà compagnia ancora per almeno 2 o 3 appuntamenti. In attività dal 1980, tante fasi e tante attitudini musicali hanno affrontato i Laibach, dall'industrial, dall'elettronica, anche accenni di hard rock. Ricordiamo la coverizzazione di Jesus Christ Superstar proprio in versione quasi hard rock, e loro sanno fare bene praticamente tutto, pochissime cadute di stile devo dire. E nota margine, suoneranno in aprile qui a Roma in un supporto, diciamo, un live che andrà a supportare la pièce teatrale di Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht, che verrà svolta a Bologna intorno al 20 aprile, 20, 21, 22 se non sbaglio, qualcosa del genere, insomma, ma soprattutto a Ravenna il 20, 24 aprile, e anche lì non si potrà mancare. Personalmente già mi sono organizzato, per cui chi volesse ci si potrà incontrare anche a Ravenna. Intanto noi andiamo avanti, andiamo, meglio, torniamo in Italia. Mega progetto dal nome La Porta Ermetica con Lunus Davis di Teatro Satanico, Claudio Giammarini di Einsof e Malato, e Adriano Vincenti di Macelleria Mobile di Mezzanotte e La Mara, e insieme hanno fatto uscire questo Si Sedes Non Is, che risente chiaramente della lezione storica di David Tibbet dei primissimi Current 93. Ci ascoltiamo tema numero 2 e soli, soli, soli. Thank you. un vasto corredo di riferimenti simbolici, esoterici, al confine con lo sciamanesimo puro, appartenente alla Porta Ermetica, che peraltro è anche una sorta di monumento proprio qui a Roma, proprio qui vicino, in quel di Piazza Vittorio. Ed il merito è di Claudio Giammarini, Davis Granziera, Adriano Vincenti. Che vanno a ripercorrere per certi aspetti le orme già di quello che fu il primo repertorio dei Current 93 di David Tibbett. In Soli Soli Soli ho anche captato dei riferimenti a Set the Control for the Heart of the Sun, indimenticato brano dei primissimi Pink Floyd, quelli diciamo più psichedelici. Saluto Wurnus Island, storico industrial piemontese. Enrico Marcheggiani con il suo progetto Blocco Nero di matrice neofolk, che ci stiamo godendo ogni lunedì sera, e Cecilia Miradoli di Pindar. Saluto anche Ludovan, che ci dovrebbe ascoltare da Berlino.